buona notte, una buona domenica a tutti. Qui ragazzi, e queste erano le buonanotte di allineamenti da Ciao Radio Como. Buonanotte. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. E inizia una nuova settimana. Ma le settimane iniziano quando più o meno vogliamo noi, no? Per esempio questa mia settimana è stata lunghissima. È iniziata giovedì scorso, lo dico a tutti. Ho vissuto una settimana di 10 giorni. E mi è capitato perché... Scusate. E mi è capitato perché sono andato a Berlino con i miei colleghi. I miei colleghi di Edison. E siamo stati lì da giovedì sera fino a lunedì mattina all'alba. Quindi questa settimana è stata un pochino stancante. Lunedì vedevo triplo, perché siamo atterrati alle 8 del mattino a Milano Malpensa e siamo arrivati a lavorare. Ho finito a lavorare alle 7 e è stato dura. E quindi questa settimana non riuscivo a capire il tempo. Mi sembrava di vivere più a lungo, di vivere una settimana che duravano due. E a Berlino mi sono molto divertito perché, come al solito, siamo andati al Boros Museum, che è il museo più figo di tutti, dentro un bunker. Un bunker sopraelevato dove negli anni 80 c'era una discoteca ed era stato costruito nella guerra mondiale per ospitare 150.000 persone a notte durante la guerra. Un posto incredibile. Che adesso è diventato un posto dove fanno una galleria d'arte, ogni 4 anni cambiano la collezione e sopra c'era questa penthouse super figa del proprietario del Boros. Ma soprattutto abbiamo fatto un sacco di belle serate. Siamo andati al Wirenate, siamo andati al Grillmüller, abbiamo bevuto birra dappertutto, mangiato kebab, fatto il The Pub. E siamo andati al Pergamon, che è stata una gran fregatura a mio parere. Non andate al Pergamon, spendete soldi per niente. Tutte le installazioni sono un pochino taroccate, finte. E non lo so. È bella invece la sala del Panorama, quella sì, assolutamente, il Panorama del Bergamo, che è una nuova sala dove c'è questa installazione di un disegno in 3D, fu molto figo perché è molto grande, tipo saranno 30 metri di altezza con 20 metri di diametro, quindi è una struttura immensa dove viene rappresentata tutta la città di Bergamo, è veramente incredibile. Ma la cosa che mi piace di più di Berlino, e poi vi lascio la canzone che ho scelto per voi per questa serata, per questa domenica che deve inaugurare con energia una nuova settimana che finalmente inizia di nuovo come siamo abituati qua in Italia, anche per me è di lunedì, iniziamo di lunedì, sì. E la cosa che mi piace più di Berlino è che ogni persona può essere quello che vuole, come vuole, ha la sua libertà, la sua dignità, il suo possibilità di realizzarsi. E ora quindi vi lascio una canzone che forse avete già sentito, che forse non sapete qual è il titolo, ed è Greenback Boogie di Ima Robot, ed è una canzone che è la sigla di Suits, una serie TV di Netflix su due avvocati, di cui uno non è un avvocato, ed è proprio quello di cui parlavo a Berlino. Non importa il certificato che hai, il ruolo che hai, ma la tensione che vai a portare nella tua vita, l'impegno che vai a metterci. E ora ascoltiamoci questa bellissima canzone e ricordiamoci un po' che energia abbiamo dentro di noi, di che colore. Life. stay for you, me. I say it's gonna put some love in your life. Don't you really wanna know how it feels? Everybody wanna see what it's like, but even wanna be inside, it ain't last. We all know there's better things in this life. Ed eccoci rientrare. Ed eccoci rientrare nel Berlino di oggi, che è un po' uno specchio di quello che era ieri. E quando ero il bambino, era il bambino, camminava con le braccia ciondoloni, voleva fare il ruscello, fosse un fiume, e il fiume un torrente. E questa preghiera, il mare. Quando il bambino era bambino, non sapeva di essere un bambino. Per lui tutto aveva un'anima e tutte le anime erano tutt'uno. Quando il bambino era bambino, non aveva opinioni su nulla, non aveva abitudini. Sedeva spesso con le gambe incrociate e di colpo si metteva a correre. Aveva un vortice tra i capelli e non faceva faccia da fotografo. Quando il bambino, era l'epoca di queste domande. Perché io sono io e perché non sei tu? Perché io sono qui e perché non sono lì? Quando comincia il tempo e dove finisce lo spazio? La vita sotto il sole è forse solo un sogno? Non è solo l'apparenza di un mondo davanti al mondo, quello che vedo, quello che sento, quello che odoro. C'è veramente il male e gente veramente cattiva. Come può essere che io, che sono io, non c'ero prima di diventare? E che una volta io, che ora sono io, non sarò più quello che sono? Quando il bambino era bambino, si strozzava con gli spinaci, i piselli, il riso al latte e con il cavolfiore bollito. E adesso mangia questo e non solo per necessità. Quando il bambino era bambino, una volta si svegliò in un letto sconosciuto e adesso questo gli succede sempre. Molte persone gli sembravano belle e adesso questo gli succede solo in qualche raro caso di fortuna. Si immaginava chiaramente il paradiso e adesso appena riesce a sospettarlo. Non riusciva a immaginarsi nulla e oggi trema alla sua idea. Quando il bambino era bambino, giocava con entusiasmo e adesso è tutto immerso nella cosa come allora, soltanto quando questa cosa è il suo lavoro. Quando il bambino era bambino, per nutrirsi gli bastavano pane e mela, ed è ancora così. Quando il bambino era bambino, le bacche gli cadevano in mano, come solo le bacche sanno cadere, ed è ancora così. Le noci fresche gli raspavano la lingua, ed è ancora così. A ogni monte sentiva la nostalgia per una montagna ancora più alta, e in ogni città sentiva nostalgia per una città ancora più grande. Ed è ancora così. Sulla cima di un albero prendeva le ciliegie tutto euforico, come ancora oggi. Aveva timore davanti a ogni strano e continua ad averlo. Aspetta la prima neve e continua ad aspettarla. Quando il bambino era bambino, lanciava come entro l'albero un bastone come fosse una lancia, che continua ancora oggi a vibrare. Wim Wenders, 1997.